Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questa nostra giornata di martedì 14 gennaio. Sembra non risolversi la questione libica, ma fortunatamente per tutti si è risolta la questione dei reali inglesi con l'intervento della regina madre o della regina nonna. Comunque di questo parleremo e nel frattempo ascoltiamoci Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Iran, si dimettono 3 giornaliste che non vogliono più mentire per lo Stato mentre crescono le proteste. Iraq, ucciso un altro attivista delle proteste, migliaia per le strade. Giordania, il re avvisa che l'ISIS sta tornando. Egitto, un video virale fa dibattere sulla misoginia. Slovenia, imputato al processo del giornalista Kuciak, ucciso con la compagna, si dichiara colpevole. Cuba, ex giudice, accusa il governo di tenere in prigione migliaia di persone con accuse dubbie. Australia, dopo 3 mesi di lotta dei pompieri, sotto controllo uno degli incendi principali. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con l'Oman. All'età di 79 anni è morto il sultano Qaboos, aveva reso il paese un'oasi di pace. Il leader arabo più a lungo al potere, quasi 50 anni, ha strappato la sua nazione dalla povertà e mediato silenziosamente per colloqui tra nemici globali. Iran, la polizia ha negato di aver sparato contro i manifestanti durante le proteste di 2 giorni fa avvenute in varie città per l'abbattimento dell'aereo ucraino. Eppure diversi video circolati sui social mostrano la polizia che attacca i manifestanti e una donna colpita da un proiettile a una gamba aiutata da altri manifestanti. E mentre questi occupano le strade per la morte dei 176 passeggeri, 2 giornalisti hanno deciso di dimettersi. Una terza giornalista che presenta le notizie alla TV di Stato si è dimessa e si è scusata per aver mentito in TV. Gelare Jabbari ha informato via Instagram il pubblico di essersi licenziata e ha scritto: è stato molto difficile per me vedere l'uccisione dei miei connazionali, mi scuso per aver mentito per 13 anni. E ancora, lo stesso ha fatto Saba Raad, che ha lasciato il giornalismo dopo 21 anni, e Zahra Khatami, che ha detto: non farò mai più TV, perdonatemi. E ancora, il figlio del leader del Movimento Verde all'opposizione è stato arrestato. Hossein Karoubi è stato preso 2 giorni dopo che il padre, agli arresti domiciliari dal 2011, ha chiesto al leader supremo, l'Ayatollah Khamenei, di dimettersi in relazione sempre all'abbattimento dell'aereo. Restiamo in Iran perché il presidente Rouhani ha firmato ieri la legge approvata la settimana scorsa dal Parlamento che classifica terroriste le forze armate statunitensi e il Pentagono. La mozione è stata votata all'unanimità dopo l'uccisione del generale Soleimani. L'uccisione del generale capo delle forze d'élite della Guardia Rivoluzionaria sarebbe stata autorizzata dal presidente Trump ben 7 mesi fa. Iraq, continuano le proteste e la repressione dei manifestanti nel paese, disordini a Qut, Karbala, Nassiriya, decine di feriti, 2 morti e un altro attivista giustiziato. Migliaia di persone hanno partecipato al suo funerale. Hassan Hadi al-Muhayil, 58 anni, è stato colpito da 4 proiettili nella cittadina di Sukh al-Shuyuk, nella provincia di Dikar. Sono almeno 511 manifestanti uccisi dall'inizio delle proteste, cominciate il 1 ottobre scorso, e più di 21.000 le persone ferite. I manifestanti sono in piazza contro la corruzione, la disoccupazione, la povertà, così come contro il governo che si basa su un sistema settario. Il Libano ha riacquistato il pieno diritto di voto alle Nazioni Unite dopo aver pagato parte di ciò che deve. Secondo le regole dell'ONU, un paese può perdere il voto dell'Assemblea Generale se è in ritardo di qualsiasi importo che sia uguale o superiore ai contributi dovuti per 2 anni precedenti, a meno che non provi l'impossibilità di pagare. Venerdì era stato annunciato che il Libano aveva perso il voto insieme a Venezuela, Repubblica Centrafricana, Gambia, Lesotho, Tonga e Yemen. Il Libano sta affrontando la sua peggiore crisi economica dalla guerra civile 1975-90 ed è anche senza un governo funzionante da quando il premier Hariri si è dimesso lo scorso ottobre. Giordania, il re Abdullah ha messo in guardia sul fatto che l'ISIS si sta riaggruppando in Medio Oriente a distanza di mesi dall'espulsione dell'ISIS. Lo scorso anno, durante l'ultima offensiva siriana, il re ha affermato che la sua maggiore preoccupazione è che l'anno passato sia stato usato per ricostituire il gruppo non solo nel sud-est della Siria ma anche nell'Iraq occidentale. Abdullah ha anche aggiunto che il recente dispiegamento delle truppe turche in Libia creerà solo più confusione nel paese. La Giordania, la cui stabilità è considerata vitale per l'instabile Medio Oriente, ospita circa 1,3 milioni di rifugiati provenienti dalla vicina Siria, devastata dalla guerra. Egitto, quando il cantante e direttore artistico Tamen Younes ha pubblicato il suo nuovo video musicale Salmonella su YouTube il 1 gennaio, non sapeva che stava per aprire un vaso di Pandora. Il video satirico ha suscitato ampie polemiche sui social network egiziani. Fan l'hanno salutato come creativo, un'opera d'arte geniale che descrive accuratamente comportamenti e atteggiamenti sessisti, mentre i critici, compresi i sostenitori dei diritti delle donne, lo hanno ritenuto dannoso e un incitamento alla violenza contro le donne. Il Consiglio Nazionale Egiziano per le Donne, l'autorità che sovrintende alle questioni delle donne nel paese, è stato tra quelli che hanno denunciato il video come controproducente e che promuove l'odio. Libia, proseguono i colloqui in Russia tra le varie delegazioni libiche. Il generale dissidente Haftar ha chiesto tempo per riflettere prima di firmare la tregua, almeno fino a questa mattina, tregua già siglata da al-Sarraj. Mosca pronta a supervisionare l'accordo. Intanto la prevista conferenza di Berlino sulla Libia si dovrebbe tenere il 19 gennaio. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Grecia, il governo di centrodestra ha ordinato la rimozione dei manifesti anti-aborto appesi nei cartelloni della metropolitana di Atene come parte di una campagna di sensibilizzazione pubblica a pagamento da parte di un gruppo pro-vita. Slovacchia si è dichiarato colpevole l'ex soldato Miroslav Marsek, che in tribunale ieri ha ammesso di aver ucciso il giornalista Jan Kuciak e la compagna il 21 febbraio 2018. Gli imputati sono 4. Il principale mandante dell'omicidio, Marian Kočner, ha confessato il possesso illegale delle armi, ma non la premeditazione dell'omicidio. La sua complice, Susana Zuzova, che avrebbe avuto il ruolo di mediatrice, si è detta innocente, mentre l'ex poliziotto Thomas Sabo, ritenuto l'autista di merce, non si è espresso. Rischiano tutti l'ergastolo. Germania, trovati morti nella base americana di Spangen-Dahlem 2 soldati nel dormitorio. Le cause non sono chiare ed è stata aperta un'indagine. Stati Uniti, secondo il Washington Post, il presidente Trump trasferirà altri 7,2 miliardi di dollari di fondi del Pentagono per i lavori di costruzione del muro al confine con il Messico, un muro di 1424 chilometri. Per il secondo anno di seguito saranno tolti a progetti per le costruzioni militari e finanziamenti antinarcotici. Cuba, un giudice della Corte Suprema, Edel Gonzalez, ha lanciato un appello mentre alcuni attivisti a Madrid hanno pubblicato documenti che suggeriscono che circa 11.000 persone sono in prigione per condotta antisociale. Una mossa senza precedenti, quello del giudice, che ha voluto evidenziare che nelle prigioni del governo ci sono migliaia di persone con accuse dubbie. Non voglio vedere sangue per le strade di Cuba, voglio la pace, ma ho molta paura per il futuro, ha affermato Gonzalez davanti a un pubblico che includeva politici del Parlamento spagnolo ed europeo. Si pensa sia la prima volta che un membro di alto rango della magistratura cubana parla in modo così pubblico. Accanto a González, Javier Larondo, un attivista contro il governo cubano che guida un'organizzazione chiamata Prisoners Defenders, ha rivelato documenti giudiziari interni che mostrano che il paese ha la più alta percentuale della sua popolazione al mondo dietro alle sbarre, con un totale di 90.000 detenuti. Australia, una buona notizia: dopo 3 mesi di lotta agli incendi che hanno devastato alcune aree importanti del paese, sotto controllo uno dei maggiori incendi, quello di Gosper's Mountain, alla periferia nord-occidentale di Sydney, mentre si attende la pioggia. La Cina ha difeso la decisione di non far entrare il direttore esecutivo Kenneth Rowe di Human Rights Watch, parlando di diritti alla sovranità. Per la Cina le ONG sono da incolpare per le turbulenze politiche che da 7 mesi stanno scuotendo l'ex colonia inglese di Hong Kong. Filippine, ceneri e lava dal vulcano Taal, allerta esplosione, evacuate 500.000 persone, ceneri e lava anche alle Galapagos, siamo adesso ai Caraibi, a rischio l'habitat naturale che ospita varie specie in via d'estinzione. Thailandia, funzionari delle Nazioni Unite confermano che una viaggiatrice, una donna di 61 anni proveniente dalla Cina, è stata ricoverata in ospedale, infettata con un nuovo ceppo di coronavirus che è stato collegato a un focolaio di polmonite a Wuhan, nella Cina centrale. I sintomi sono stati rilevati all'arrivo all'aeroporto di Bangkok. Bangladesh, il cantante Sufi Shariat Sarkar, 40 anni, è stato arrestato ai sensi della rigorosa legge su internet, la Digital Security Act, per aver ferito il sentimento religioso dei musulmani. Secondo attivisti e giornalisti per i diritti umani, questa legge, approvata nel 2018, è una grave minaccia alla libertà di espressione della nazione di 168 milioni di persone. Secondo la legge, chiunque può finire in prigione per propaganda contro la nazione, avere fino a 10 anni per contenuti digitali che feriscono i sentimenti religiosi o creano disordini. E concludiamo con il Pakistan. L'alta corte di Lahore ha annullato la condanna a morte in contumacia per l'ex presidente Musharraf, definendo incostituzionale il verdetto della corte speciale che lo ha condannato per tradimento il 17 dicembre scorso. Musharraf ottenne il potere con un colpo di stato nel 1999 e fu presidente dal 2001 al 2008. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi. Vi ricordo che siamo una radio indipendente e se volete sostenerci potete andare sul nostro sito radiobullets.com/sostienici. Ci sentiamo domani con una nuova raffica di notizie, sempre solo su Radio Bullets.

tutti, perché vanno quasi in sequenza, secondo me rispondendosi un po' l'uno con l'altro. Longhi ha lavorato sul riadattamento teatrale della sceneggiatura di Pirro Petri per la classe operaiva in Paradiso, e quindi ha dovuto mettere mano con gli occhi del presente, per un pubblico del presente, appunto a questa storia un po' distopica che non piacque tanto neanche ai tempi, di conflitti operai e di improbabili o quantomeno difficili alleanze con gli studenti. Ricordiamo che ci saranno anche un altro paio di appuntamenti in marzo e maggio. Sì, in marzo e in maggio, in cui ci occuperemo prima della parte, diciamo, assertiva che la classe operaia seppe mettere in campo, oltre le proprie rivendicazioni rivolte a tutta la società quando si occupò di welfare, istruzione, 150 ore, riforma psichiatrica, eccetera. Anche questo molto dimenticato, questo aspetto. E poi infine con ospiti, non voglio spoilerare, si spera, così abbastanza noti anche al grande pubblico, a quello non specialistico, diciamo, vorremmo discutere appunto più puntualmente sulle trasformazioni del mondo del lavoro odierno. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. 9:32 minuti di questo 14 gennaio, martedì. Cominciamo dalla pagina internazionale, che è al centro dell'attenzione, anche se ci spostiamo in un luogo che è assolutamente fuori dai grandi obiettivi della major informativa. Parliamo della Bolivia. Parliamo della Bolivia perché quando la repressione ha tutto il sapore dell'Occidente, o non viene parlata oppure viene descritto come un fatto di democrazia. In Bolivia c'è in atto un classico colpo di Stato insieme al regime America Latina, e ne parla meritoriamente, e da qui prendiamo spunto, la Contropiano, giornale comunista online. In Bolivia l'anno inizia con purghe e arresti di dissidenti. Secondo l'inchiesta di Minpress News, testata indipendente, Marcelo Hurtado, presidente di ATV Network, è stato arrestato con l'accusa di evasione fiscale. Viene oscurata Telesur, emittente di Caracas, mentre altri giornali sarebbero stati rimasti feriti da colpi di pistola e torturati in cella, giornalisti. Mentre la corrispondente di Al Jazeera viene colpita da un lacrimogeno sul viso mentre riprendeva le cariche della polizia durante la repressione di novembre 2019. Il pugno di ferro, continuo sulla Bolivia questo intervento del Contropiano, il pugno di ferro non avrebbe risparmiato medici d'ospedale. Mirto Sanginez, amministratrice del Montero Hospital, che aveva autorizzato il trattamento di dimostranti feriti, viene ripresa in manetta a Santa Cruz, scortata da due membri mascherati delle forze speciali. Fonti governative riferiscono che si è accusata di aver coperto l'identità di un guerrigliero FARC. Smantellate le intere equipe di medici cubani messi a disposizione negli ospedali, 700 rimpatriati a forza, di cui 143 lavoravano al nosocomio di Cochabamba, rimasto senza personale medico. Una severa punizione inferta alla città che era roccaforte del MAS, il barrio di Evo Morales, il presidente legittimo defenestrato. La differenza sostanziale tra la repressione cilena e quella boliviana, commenta allora così il Contropiano, sussiste nel fatto che in Cile abitualmente spariscono gli oppositori, una sorta di lupara bianca che ha sempre accomunato Cile e Argentina durante i regimi militari. Tattica ripresa negli ultimi mesi durante le rivolte contro il carovito, mentre in Bolivia, invece di ricorrere ai desaparecidos, si preferisce dare la massima risonanza agli arresti come monito per i dissidenti. La ministra della comunicazione Roxana Lizarraga ha dichiarato che l'obiettivo di Stato è smantellare l'intero apparato della propaganda di Morales. Quindi questo è la Bolivia, di cui nessuno parla perché c'è i smemorati di Collegno sono tanti nelle nostre redazioni nazionali. Si parla invece evidentemente molto della repressione a Teheran. Ora è chiaro che le botte sulle botte, dunque, da qualsiasi porta da parte arrivino. Spari sulle proteste, Teheran nega. Proseguono gli scontri. Il GM si difende i mezzi non letali, defezioni e critiche da sportivi e artisti. Beh, finché defezionano celebrità, che all'estero hanno sempre da spendere una miglior moneta, non fa meno effetto. Quando defezionano le persone qualsiasi, questo è più significativo. Comunque c'è la polemica se abbiano sparato o non abbiano sparato. Teheran il governo nega, ma un governo bugiardo chiaramente è poco credibile, quindi d'alito anche a tutte le deformazioni della propaganda avversaria che evidentemente sono in campo. Allora l'Iran, invece, questa è la sua dichiarazione: proteste dirette dai terroristi americani, racconta Giampiero Grammaglia dal Fatto Quotidiano. 9 manifestazioni anti-regime a Teheran, Rouhani promulga la legge contro gli USA, il Pentagono smentisce Trump. Questo è interessante perché, arrivando al Sole 24 Ore, si conferma questa notizia: Soleimani smentita la versione di Trump, quindi qui bugiardi sia a Teheran che a Washington dilagano. Il generale ucciso. Per il Pentagono nessuna prova di imminente attacco all'ambasciata USA, che è stato il casus belli per cui già Trump ha giustificato il suo assassinio internazionale. Il presidente, per difendersi, aveva attaccato i media, costruttori di fake news e i democratici, tanto per cambiare, che è un classico di Teheran, di Trump. Mentre mai sparato chi protesta, ma Iran è scontro continua anche il giornale di questa mattina. E d'altra parte abbiamo invece l'altra vicenda, quella libica. Libia, Haftar prende il tempo per la firma del cessato il fuoco. Mosca, forse in mattinata l'accordo con il rivale Serraj, però non si sono incontrati, mentre si conferma per fine mese l'accordo, l'incontro a Berlino. Vedremo se sarà vero e quanto sarà di sostanza. Il premier Conte ha incontrato ad Ankara il presidente turco Erdogan in vista della conferenza di Berlino fissata per il 19 gennaio. Naturalmente, se andiamo sui giornali della destra italiana, Conte può farsi fare qualsiasi cosa, ma sempre comunque torto, perché se non gira l'Italia è ininfluente. Si gira, ecco che in forte verità stampa questa mattina, scusate, non la verità, ma abbiamo la pagina di Libero, dice Conte, agenzia del turismo, e questo è perché viaggia, anzi è il giornale, scusate ancora, agenzia viaggi Conte Di Maio, perdi tempo, il premier in Turchia e il ministro in Tunisia non combinano nulla, ma cosa vorrebbero che facessero? Invadessero con le truppe italiane Tripoli e la Cirenaica. Intanto Haftar non firma l'accordo e ancora guerra in Libia, questo è quanto. Ma su Haftar e sulle sue intenzioni sono due commenti diversi. Uno è quello che ci dà sulle 24 ore: il dilemma del generale, fino a che punto può sfidare la pazienza di Mosca e il generale Haftar, visto che Mosca aveva combinato un affare con Erdogan per spartirsi il petrolio e le zone di influenza in Libia tra Serraj e lo stesso Haftar. D'altra parte, anche Serraj i suoi problemi, perché secondo l'analisi di Fausto Biloslavo dal fronte di Tripoli, Fratelli Musulmani, la variabile impazzita. Qui perché c'è il capo del consiglio presidenziale di Tripoli, Khaled al-Mishri, un uomo della Fratellanza Musulmana, ha approvato l'accordo imponendo la clausola non scritta che le truppe di Haftar devono ritirarsi sulle posizioni precedenti al 4 aprile, quindi sarà impossibile che il contendente Haftar torni su le precedenti confini, invalidando tutta la sua offensiva degli ultimi giorni. Passo per l'Italia, vado all'estero, inizio anch'io dal Sud America, dal resto del Carlino. Ho visto la presenza in Emilia forte della Lega per quanto riguarda la campagna di propaganda elettorale. Vescovi emiliani, assista al PD, la replica di Salvini: ma i cattolici sono con me. Vediamo cosa si intende per cattolici, andando in Brasile, a Rio. Il Cristo ribelle della Manguera contro Bolsonaro. Sarà un Gesù ribelle il protagonista del carro con cui la storica scuola di Samba Manguera sfilerà nel prossimo carnevale. Un Cristo dell'uguaglianza, allergico a ogni intolleranza, come anticipano gli ideatori, compositori dell'enredo in questione. Faccia negra, sangue indio e corpo di donna, dice il testo del samba che accompagnerà il carro. La Manguera si è aggiudicata il titolo campione dell'edizione passata con un carro dedicato alle figure neglette della storia brasiliana. Beh, del resto Gesù era vicino ai poveri, vicino e insieme a queste realtà, no? Opposta all'estrema destra razzista del presidente Bolsonaro. A questo punto lascio a voi la riflessione sulla affermazione di Salvini: i cattolici e i cristiani sono con me. Lasciamo il manifesto e proseguiamo con l'estero. Giustamente, come è passato Alfredo, anch'io andrò a vedere le realtà che sono in intersezione con l'Italia, già dal titolo principale, italiani pronti a partire. Se Putin convince Haftar sull'accordo, ci sarà una forza di pace europea a Tripoli, anche con i nostri soldati. Si prosegue con l'approfondimento sulla missione, così l'Unione Europea prepara l'invio di navi e soldati. Sono italiani, francesi e spagnoli. Conte, valuteremo una forza di interposizione modello Libano. Haftar si ferma a un passo dall'intesa, slitta la tregua di Putin per Tripoli. Al tavolo di Mosca convocato il leader del Cremlino ed Erdogan firma solo Sarraj. Capo del governo riconosciuto dall'ONU, il generale della Cirenaica non si accontenta e chiede un altro giorno di tempo. E sullo sfondo c'è la conferenza di Berlino. Quindi sempre divisioni che si estendono poi ai blocchi di potenza principale del mondo, non solo vicino al Medio Oriente, ma per aumentare quella che è una divisione, come ho detto in precedenza, in blocchi, continua e certo non è un buon segno per quanto riguarda il dominio di una zona fondamentale. Dal manifesto, che riprendo, che tratta ovviamente con grande attenzione queste situazioni, il titolo principale sotto la testata è Sabbie mobili, visto anche i deserti presenti in quella regione. Al vertice di Mosca convocato da Putin con la presenza della Turchia, raggiunta l'intesa per lo stop al contingente turco e l'invio di osservatori ONU, ma il generale Haftar per ora non firma la tregua e non ritira le sue truppe. Conte vede Erdogan, il cessate fuoco è solo al primo passo. Il cessate il fuoco di Putin c'è, la firma di Haftar ancora no. A Mosca i colloqui indiretti sul conflitto in Libia tra i due litiganti, ma l'uomo forte di Bengasi si prende una notte per riflettere. Intanto troviamo la convocazione e l'invocare di Conte i caschi blu dell'ONU, Erdogan dice forse come osservatori. Questo è per il manifesto. Riprendiamo per la stampa invece il quotidiano torinese, la parte dedicata agli esteri, dopo un inizio che per così dire è molto più vicino a noi, che vedremo in seguito nella nostra rassegna stampa. Beh, certamente la presenza a pagina 10 delle argomentazioni approfondita, Sarraj firma la tregua in Libia, Haftar dice no e prende tempo, e per quanto riguarda più lontano dalle zone ma sicuramente coinvolti, cominciamo dalla Francia. Parigi in difficoltà sul fronte di Shahel, chiede aiuto all'Unione Europea. Beh, l'argomentazione Iran, mi ricollego alla partenza di questa rassegna, è a pagina 13 invece della stampa stessa. Gli studenti non cedono, agenti in affanno dicono mai sparato. Per la terza sera i giovani di Teheran si sono radunati alle università contro il regime. Le autorità, dopo l'abbattimento del jet ucraino, hanno dato ordine alla polizia di contenersi. Una conduttrice TV si dimette: chiedo scusa per aver mentito per 13 anni. Chissà se anche in Italia ci saranno queste affermazioni, non so. E poi c'è questa vicenda che si consuma a Roma, ma che ha una dimensione mondiale come scontro. Tu prima parlavi della samba cristiana, e allora abbiamo questo scontro che viene identificato nei due papi. Siamo tornati all'antipapa di Avignone, eccetera, sì, eccetera. La doppia voce del Papa imbarazza la Chiesa, dice il secolo XIX, verso il limite l'esternazione del pontefice emerito. Questo è lo scontro che poi naturalmente si gioca anche con la macchina del fango, facendo secco l'uno con l'altro con le accuse di pedofilia. Ciliba, un bel servizio di report su questa guerra al Papa attuale. E il Santa Sede, il caso è così raccontato dal Corriere: celibato dei preti, il giallo in Vaticano sulla firma di Ratzinger. Il suo entourage non è autore di quel libro, quindi il Papa emerito lancia il sasso e tira il braccio, ma questo non toglie che si è aperto appunto il sasso, l'ammasso è finito in piccione. Nei luoghi remoti serve la presenza, mancano sacerdoti per i sacramenti, dice il vescovo Cotter. Replica il cardinale Müller, quello che non è che è il gusto col sapore dello yogurt. Questo, distruggere questo sapore di gusto ne ha poco, a quanto sembra. Distruggere un principio è un pericolo per tutta la Chiesa. Quindi l'immagine, la ieraticità, intangibilità della Chiesa, come se la Chiesa non fosse mai cambiata in questi secoli. Ma questo lasciamo perdere, la parola va agli storici. Ratzinger va ascoltato, viene preso quindi Müller, non come yogurt ma come cardinale dal giornale. Ratzinger va ascoltato, celibato indispensabile, con nessuna eccezione. E anche per le seghe, il prefetto emerito della dottrina della fede, non va distrutta l'immagine del sacerdote. Questo è quanto arriva in questo dibattito, che sembra medievale, invece è una cosa assolutamente presente. Finiamo questa pagina internazionale molto densa venendo a un'altra repressione, l'India. Dalle proteste contro la legge sulla cittadinanza che penalizza i musulmani allo sciopero che ha portato in piazza 250 milioni di persone. In India c'è fermento sociale, l'opposizione a Narendra Modi, che è il premier del Vaiapi, il partito induista integralista, si sta riorganizzando. A fare un quadro della situazione ai nostri microfoni, il giornalista Matteo Mamiavaldi, sentiamo le sue parole. La prima, quella che hai accennato sulla legge di cittadinanza, in pratica ha visto l'esecutivo di Narendra Modi passare una legge che di fatto modifica i criteri secondo cui si può dare la cittadinanza a degli immigrati irregolari già residenti in India. E la legge è stata scritta in un modo abbastanza furbo, cioè dicendo che gli immigrati irregolari che sono residenti in India e provengono da Afghanistan, Pakistan e Bangladesh appartengono a minoranze religiose di quei paesi, cioè tradotto tutti i non musulmani, avranno diciamo delle facilitazioni per ottenere finalmente la cittadinanza. Questa legge è stata accolta con tantissime critiche perché da un lato palesemente è discriminante verso la religione musulmana e dall'altra i manifestanti temono che possa essere diciamo un escamotage per far passare poi un'altra legge che dovrebbe in pratica costringere tutti i cittadini indiani a provare che il fatto che loro abbiano il diritto alla cittadinanza, cioè devono dimostrare di essere cittadini indiani, di essere nati in India, di essere trasferiti in India prima di determinate date deadline, e questo significa che se un cittadino indiano non è in grado di produrre questi documenti, nel caso non sia musulmano ci sono delle facilitazioni che vengono date da quella legge precedente, e invece se è musulmano rischia la deportazione. Quindi questa cosa ha iniziato a portare migliaia di studenti che come al solito sono all'avanguardia nei movimenti di protesta in India, e nel giro di poche settimane gli studenti sono stati raggiunti dal resto della società civile. Quindi in questo momento Narendra Modi si trova con un paese che politicamente sta diciamo ritrovando la bustola dell'opposizione al suo strapotere che ha condotto nel 2014, e poi c'è stato lo sciopero dei lavoratori. Uno sciopero che dicevamo ha portato tantissime persone in piazza e che riguarda, come dire, fondamentalmente le condizioni di vita. Sì, il problema grosso per Modi e per l'India contestualmente è che Modi nel primo mandato è stato eletto su una piattaforma in cui lui raccontava che lui sarebbe arrivato al potere e avrebbe diciamo fatto ripartire la locomotiva indiana. Per 4 anni sono stati prodotti dei documenti e dei dati che raccontavano diciamo questo Indian Dream. Grazie a Narendra Modi l'India sta tornando a crescere del 7%, cresce più della Cina, e adesso invece, secondo mandato, iniziano diciamo a venire tutti in dal pettine, cioè l'economia non sta andando così bene, ci sono una serie di misure che i lavoratori chiedono che vengano messe in pratica, tra cui ad esempio il reddito minimo garantito, che di cifre tra virgolette sempre irrisorie, però comunque per l'India sono cifre importanti, e soprattutto delle politiche che possano incentivare l'impiego, perché l'India ha un enorme problema di disoccupazione. Gli ultimi dati raccontano una disoccupazione all'8,5% toccata a ottobre, ed è il record storico dell'India, cioè dal 47 a oggi l'India non ha mai fatto così male. E questa cosa qua ovviamente ha portato a uno sciopero generale che si è tenuto la scorsa settimana, ha portato 250 milioni di persone in piazza e sostanzialmente sancisce una cosa che ogni giorno che passa è sempre più chiara, cioè da un lato c'è una società civile che non è d'accordo con le politiche sociali e ideologiche diciamo di una destra hindu che non vuole avere a che fare con i musulmani e anzi li discrimina, e dall'altra c'è una società civile che si sta rendendo conto che il sogno tra virgolette venduto da Modi somiglia molto a aria fritta. Alcuni osservatori nostrani, forse un po' semplificando, definiscono Modi un sovranista liberista. Ti chiedo se sei d'accordo e se, come dire, il fascino che ha esercitato quindi alla luce di queste mobilitazioni si sta un po' sgretolando. Ma io sono parzialmente d'accordo, nel senso che le politiche liberiste in India sono state fatte più o meno da tutti, e Narendra Modi diciamo che ci ha messo del suo dal 2014 in avanti. Infatti adesso ci dovrebbe essere la nuova legge finanziaria dell'India, dovrebbe essere presentata in Parlamento il 1 febbraio, e si annunciano una serie di privatizzazioni, scorporare le aziende di Stato e insomma solite diciamo, politiche che conosciamo bene anche in Europa. Però dall'altro lato Modi ha un appeal enorme sulla popolazione per quanto riguarda una serie di politiche ideologiche della destra hindu, cioè sta vendendo a gran parte dell'elettorato indiano un sogno per cui l'India dovrebbe tornare a questo passato glorioso che in realtà non è mai esistito e dovrebbe diventare quella che l'ideologia dell'ultradestra hindu chiama Hindu Rashtra, cioè uno stato solo per hindu, e tutte le minoranze sia religiose che etniche, che sono tante, ad esempio 200 milioni di musulmani, l'India è il terzo paese musulmano al mondo, e nell'idea di Modi e del partito che lui guida non dovrebbero aver posto. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. C'è di esire, perché leggo allerta massima per il Taal, questo vulcano, siamo nelle Filippine, con 500.000 di filippini in fuga, racconta il giornale dal vulcano, sta per succedere qualcosa di tremendo, atteso quello che viene definito ufficialmente un grave fenomeno esplosivo, c'è davvero aver paura, e potrebbe scatenarsi uno tsunami, quindi le Filippine sono davvero in allerta più che rossa. Sì, continuiamo e concludiamo questa nostra pagina dedicata agli esteri, andiamo alla strage di soldati nigeriani. Il G5 Sahel convocato dall'arrogante Francia. Bilancio di 89 uccisi in un nuovo attacco jihadista. Sì, perché lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Immaginiamo se questa strage fosse poi più vicina a noi, l'eco che avrebbe fatto. Qui la troviamo a pagina 2, almeno sul manifesto. Dopo le ultime verifiche, il bilancio è definitivo. Sono 89 e 77 i militari nigerini morti e i jihadisti, ha dichiarato domenica sera il portavoce di governo in riferimento all'attacco nella base nigeriana di Cingodar del scorso giovedì, l'attacco peggiore nella storia del Niger, anche in confronto alla recente strage in Ates del 10 dicembre scorso, che causò la morte di altri 71, che non sono certo pochi, e aumenta anche in quella zona lo scontro continuo in un'Africa che a forza di occhio per occhio resta completamente cieca. Detto questo, gli occhiali di approfondimento riportano l'attenzione dell'Oriente nel Taiwan, annulla le pressioni di Pechino, la vittoria di Tsai incoraggia gli Stati Uniti da America. Taipei stesso status quo, no a una sola Cina, appunto questo è quello che viene dal manifesto a pagina 12. Concludo con qualcosa che comprende tutto il mondo, Extinction Rebellion. Di questi tempi abbiamo bisogno di solidarietà e modi migliori di lavorare insieme, serve allertare le persone ma anche prepararsi a resistere. Gail Bradrock, cofondatrice di XR, racconta il movimento ecologista nato in Gran Bretagna e presente in 72 paesi del mondo. Il concetto di ecofascismo è poco discusso in Italia, cosa indica? E si parla dal libro di Margaret Atwood, da cui è stata tratta anche una serie TV, Il racconto dell'ancella, è un approfondimento interessante che troviamo a pagina 13 sulle condizioni ambientali e sul pericolo di come vengono approcciati questi problemi da parte dei poteri forti. Veniamo allora alla pagina italiana. Parte la stretta da 1 miliardo sui crediti verso il fisco. È l'apertura del Sole 24 Ore, sempre intento a guardare appunto l'aspetto economico-finanziario. Parte la stretta sui crediti fiscali per colpire le indebite compensazioni, da cui è attesa una minor spesa per l'erario di 1.084 milioni quest'anno. Giovedì 16 scadono dunque i termini per il versamento delle ritenute da parte dei sostenuti d'imposta per i versamenti IVA e il primo test sulla stretta dei crediti per IRPEF. L'IRPEF naturalmente è uno dei temi che sono nell'agenda del governo del dopo fine 19. Tasse sul lavoro, primo stop, dice allora il Corriere della Sera, lo stop and go sembra essere la rotta di marcia di questo governo. Il progetto di riforma dell'IRPEF, Gualtieri convoca i sindacati sul cugno, ma i 5 Stelle serve l'intesa all'interno del governo. Dunque sull'IRPEF i paletti del tesoro sui conti, l'accorpamento dei primi due scaglioni, l'imposta costerebbe almeno 20 miliardi. Questo. E poi c'è la sottosegretaria pugliese del PD che pensa che la colpa sia del reddito di cittadinanza, perché tutte le colpe sono di cittadinanza, non per la spesa delle armi, le spese di opere faraoniche. anche inutile. Se dare dei soldi ai disoccupati è una colpa, perché il reddito di cittadinanza, chi non lavora è favorito. Questo sarebbe, oddio, con le cifre da miseria che abbiamo letto sul reddito di cittadinanza, penso che se hai favorito, che devo dire che beh, se lavori come gli schiavi del pomodoro a 2 euro ogni 3 ore, forse sì, ma altrimenti non è vero. Le modifiche da apportare: il consiglio non deve essere contabilizzato a livello familiare, bisogna intervenire anche sul decreto dignità, come chiedono imprese e sindacati. Questo è il PD che si sposta a destra su questa vicenda. Dalla pagina sempre del governo andiamo al giornale, che parla della Diciotti, perché c'è Gasparri che l'ha messo a fare il presidente di una commissione. Vedete voi quale super parte si è messo a fare la commissione sull'autorizzazione a procedere sui ministri o sui parlamentari. L'avvocato Conte si sfila dal processo Gregoretti, leggo dal giornale, Bagare in commissione. Scontro sullo spostamento del voto su Salvini dopo il 26. In realtà lo scontro è un altro, perché la maggioranza, che è minoranza in quella commissione, perché il presidente del centrodestra, adesso è Gasparri, aveva chiesto che venissero portate l'esame dei commissari anche i rapporti medici sui migranti tenuti in ostaggio da Salvini al largo della costa italiana, e Gasparri non sa perché ha detto di no. Questo è il modo per condurre in modo imparziale, tra virgolette, con 18 virgolette, una commissione. Voto su Salvini, caos in giunta, muro contro muro sulla data, dice anche il Corriere. La maggioranza lascia il lavoro per protesta contro Gasparri, che vuole decidere il 20, naturalmente, guarda caso, il giorno dopo le elezioni. Il leader punta sul Mattarellum, questo andiamo sulla campagna elettorale, la riforma elettorale, altro tema, altro giro, e questo è quindi Mattarellum contro il maggioritario secco del la Lega. Questo è quanto che arriva dalla pagina Il Corriere della Sera. Sì, a proposito di discontinuità, pagina 6 è di analisi per alleanze e per proseguo da parte del PD, le dichiarazioni, il PD la discontinuità c'è e rilancia l'alleanza con i 5 Stelle e vi è la benedizione di Conte. Franceschini risponde alle sardine, cambiamenti su Europa, fat tax migranti, sui decreti partiremo dalle correzioni di Mattarella. Orlando afferma un programma per la legislatura. Tutto ciò nell'abbazia, così viene definito dalla stessa stampa, e vado sul quotidiano torinese, lascio per un attimo Repubblica, PD, patto dell'abbazia, e poi un'affermazione che non si vota neanche se si perde in Emilia, quindi ci sono già delle considerazioni a proposito di quell'ipotesi. Zingaretti offre a Conte un accordo fino al 2023. Guerini, ma non dobbiamo guardare solo a sinistra, non c'è pericolo, Guerini. Orlando, vogliamo ragionare di come questo governo possa durare, e poi si prosegue con quello che è una situazione quanto mai controversa all'interno dei Dem, divisi sull'agenda di governo, e torno su Repubblica. Sui decreti sicurezza è così definito lo sbraco. Per i governisti la priorità è puntellare l'esecutivo, anche perché la vittoria di Bonaccini è tutt'altro che certa. Vi è un po' di così, mi sembra, come di paura? Orfini, così è una presa in giro. Padoan, abbiamo paura a parlare di crescita. Questo è per quanto riguarda la realtà specifica, che prosegue a pagina 8. I dubbi di Scandiano, quindi siamo nel cuore dell'Emilia, il voto nella terra di Prodi, ricca ma arrabbiata. Probabilmente proprio perché è ricca, ma ricca in quel modo da arricchita, in quel modo da aver paura che quel giardinetto, quell'orticello gli venga intonso, o almeno nel le loro immaginarie idee intonso, venga così contaminato, venga messo in pericolo. Ma come può succedere, no? È la città del primo asilo nido, delle cooperative sociali, del cattolicesimo democratico. Qui Salvini in campagna elettorale ha detto: rispetto i vecchi comunisti, ma non ci sono più. E intanto, a proposito della situazione Emilia-Romagna, andiamo a trovare le realtà legate al territorio, a Scandiano, per il titolo principale e i dubbi e Prodi, l'ex premier. Il conflitto è tra chi si sente parte del gioco e chi si sente escluso. Il sindaco del PD ora in carica, la classe dirigente ha commesso l'errore di arroccarsi. Ma oltre a un'analisi di errore ci deve essere anche un'idea di rilancio. cioè perché l'immobilismo e la divisione che sta profilandosi all'orizzonte non può che far gioco alla parte ovviamente legata a Salvini. Comunque, a pagina 9 di Repubblica, cambiamo regione, andiamo in Puglia, anche lei protagonista in questi giorni di incontri, il caso Emiliano, il vincitore che ha litigato con tutti, persona così certamente carismatica, una figura importante con luci e ombre se vogliamo. Il governatore di Puglia ha trionfato alle primarie e si ricandida, Renzi e Calenda non lo sostengono, Vendola soffre e lui pesca anche a destra, come vi ho detto, una figura quanto mai contraddittoria, ma non mi piace questo termine, una figura carismatica sicuramente, dove l'analisi politica deve essere approfondita, perché in maniera dettagliata sicuramente, non in maniera superficiale, prende del posto, ecco, diciamo, non solo fisicamente perché è un omone, ma anche come presenza e leadership. Torniamo in Emilia Romagna, metti un bambino nell'urna elettorale, Speranza annuncia i punti nascita, per le destre erano il simbolo dell'abbandono delle periferie da parte di Bonaccini, e il titolo che troviamo dal Manifesto va in approfondimento, come vi ho detto, a pagina 7. E chiudiamo, arrivano i nuovi direttori di rete, stiamo parlando di Viale Mazzini, quindi della RAI, la Lega furiosa, il PD non si accontenta, oggi il voto del CDA, Coletta RAI 1, i Dem chiedevano di rinnovare anche le testate. Un TG2 chiaramente targato leghista attualmente. Dicevi, la sinistra, secondo il Gazzetto del Mezzogiorno, sinistra modello Emiliano, inteso Emiliano come il governatore della Puglia, non come Emilia Romagna, perché Zing è solo, i Big Dem stanno con Conte, l'Emilia non conta, secondo il Fatto Quotidiano. Buffagni, 5 Stelle, le nozze coi Dem, il movimento è altro, chi è innamorato di loro può anche traslocare, quindi i 5 Stelle si stanno dilaniando sul vecchio Busilis, non sa né di destra né di sinistra, infatti c'è chi va a destra, c'è chi va a sinistra, o a centro-sinistra per essere più esatto nel linguaggio. Poi i 5 Stelle hanno queste cose tutte loro interne che interessano davvero poco, penso, le masse popolari. Guerra di poteri di Casaleggio, così Rousseau deve cambiare. Modifica lo statuto, il residuo dei fondi non andrà all'associazione ma alle imprese, questo è perché non prendono abbastanza soldi dallo Stato le imprese. Comunque, dicevamo che Salvini ama i vecchi comunisti che non ci sono più. Così, sì, non, posso, così non può essere smentito. E quelli che esistono, magari scritti a lampi, gli danno contro, dice che sono di parte. Questo è Salvini. Allora parliamo della Lega. La testimone, ed è l'apertura del Fatto Quotidiano, sembra quelle vecchie pagine di Gialli Moldori col cerchio rosso, del mistero. Il caso Rubli, Rina, inguaia Salvini and Company. I verbali della cronista russa al tele Alexandrova della Tasso, gli incontri dei leghisti a Mosca. Non so perché le croniste russe sono ritratte in pose molto suadenti, molto affascinanti. Comunque, lasciamo perdere. Nessuno pensi che qualche leghista abbia dei dubbi sulla Lega, perché la Lega può rubare quanto vuole. Basta che non siano zingari o immigrati, tutti gli altri possono rubare. Infatti si capisce anche la rivalutazione di Bettino Craxi in questo momento, perché il furto di Stato è un furto che conviene, invece il furto del deviante, del poveraccio, va massacrato. Irina e PM, ero con Salvini la sera prima del Metropol. Rubligate, quattro cene dei leader leghista a Mosca con la giornalista della TASS, l'ultima la vigilia dell'incontro sull'affare di gasolio tra Savoini e i russi. La tesoriera di Maroni, presidente, interrogata sui 49 milioni riciclati, diciamo sempre che anche i più ladri tra gli zingari per rubare 49 milioni per passare 7 vite sugli autobus a borseggiare gli utenti, ecco, questi lo fanno un colpo solo. Questa è la pagina della Lega, e andiamo anche a pagina 10 allora, perché c'è la Lega che è appunto il famoso carro dei vincitori su cui salgono bla bla bla bla. Abbiamo Francesco Giro. Chi è Francesco Giro? È uno di Forza Italia, anzi vado nella Lega a far la quinta colonna del Forza Italia, il nostro agente Lavana, Un altro big fortista lascia Berlusconi per andare con Salvini, sorpasso del Carroccio al Senato, quindi si sta disfacendo come neve al sole Forza Italia, francamente pochi piangono su questa bara. Poi c'è l'amico Renzi che, abbandonata la politica, si dà ai bisticci come i bambini che litigano. Renzi spara contro i grillini, doppio pesisti sulla Azzolina. I leader di Italia Viva aprono una nuova crepa nel governo sulla tesi copiata dal ministro. Ora tacciono, ma con la Madia quanto ci hanno dato. Vi risponde il Fatto Quotidiano in questo entusiasmante querel, perché francamente penso che ci siano assemblee spontanee nelle fabbriche a discutere di questo. Rai, il PD fa fuori al De Santis, questa è la Rai, mentre abbiamo la cronica della Azzolina. Casolina, che secondo il Fatto Quotidiano abbiamo Casa Casolina, il software, ecco perché non è plagio. E a pagina 6 si fa un confronto, le analisi del software antiplagio sul lavoro contestato, 5 brani non citati nell'introduzione che dà solo le definizioni. Dunque, in tutto sono 300 parole su 1000, non so che cosa, parole. Non c'è bisogno di, non sono lauree, ma lavori descrittivi. Quindi è veramente una polemica da Verità, da Libero, che viene ripresa ampiamente anche da Matteo Renzi. E allora veniamo alla pagina che tu già citavi, della guerra elettorale dell'Emilia Romagna, per cui allora abbiamo subito il Corriere di Bologna che ci dice, a proposito di cristiani, io sono cristiano, lì cristiano, l'altro la samba cristiana, i vescovi, le elezioni alla Chiesa scende in campo, l'osservatorio della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, no a sovranismi e populismi, Salvini, cattolici votano per me. E appunto, come tu citavi prima all'inizio della lettura, questo è la è quello che avviene dalla pagina della cronaca locale, mentre a pagina 9 abbiamo l'ultima di Bonaccini, regalare ai migranti i beni confiscati ai boss. Beh, lasciamoli ai boss, piuttosto che dagli migranti. È il discorso di qui sopra, quando il furto di palazzo va bene, quando i migranti o di zingari no. E poi naturalmente identificando come fanno i leghisti chi viene ricoverato, chi si fa della guerra come un ladro, perché questa è la logica di base. Il piano del PD in Emilia Romagna è usare gli edifici sequestrati per l'accoglienza. Grande scandalo di Antonella Andrighetti. Dice, ma no! Usiamolo magari per qualche sfilata di moda, se proprio dobbiamo confiscare la mafia. Sono oltre 40 gli immobili sequestrati in disposizione, via il bando per 2000 posti. Questo è quello che è uno degli elementi, no? Per cui in particolare nelle famose periferie dove la politica è più lontana, dove le cose si confondono un con l'altro, il blob diventa inesplicabile, la Lega fa presa con la sua retorica da uomo comune, da senso comune, che è molto rassicurante, come dicono degli osservatori. E d'altra parte anche abbiamo un elemento che riguarda la cronaca locale emiliana che pesa sulla vicenda delle donne, perché in vista proprio delle elezioni regionali, quindi lasciamo la propaganda di Salvini da accatto e veniamo alle cose più serie, magari meno ascoltate ma più serie, in vista delle elezioni regionali la campagna hashtag pensaci prima chiede un impegno concreto delle istituzioni contro la violenza di genere, che non mi sembra essere una gran preoccupazione della Lega questa. Tra le richieste un reddito per le donne che escono dalla violenza, abbiamo parlato con Angela Romanin del coordinamento Tringente Antiviolenza dell'Emilia Romagna, sentiamo le sue parole. È una campagna che vuole sensibilizzare sul tema della violenza alle donne, la campagna elettorale vuole che i candidati e le candidate che sono in lizza per governare la nostra regione dicano come la pensano sulla violenza contro le donne, e quindi li si stimola su questo piano proponendo anche 3 punti che escono proprio da un dibattito interno a un gruppo di persone, tra cui rappresentanti anche di centri antiviolenza, che ragionano su quello che ci vorrebbe di più nella nostra regione per contrastare la violenza contro le donne. Nel comunicato si sottolinea come la prevenzione, ma anche, come dire, l'impegno economico e non solo, e delle istituzioni siano un fattore fondamentale, no, per contrastare la violenza di genere. Nello specifico queste 3 richieste cosa riguardano? Ci si concentra, diciamo, sulle donne già vittime di violenza che si trovano ad affrontare un difficile ostacoli percorso di uscita verso un'autonomia, verso un progetto di sicurezza. Queste 3 azioni sono un sostegno economico in questo percorso di fuoriuscita, che è essenziale, visto una sorta di reddito di cittadinanza, ecco perché le donne vengono spesso colpite sul piano economico, vengono impoverite dalla separazione in primis, in secondo luogo da una separazione da un uomo che ha usato violenza e che continua poi a usarla anche dopo che lei si è allontanata, per esempio innescando un contenzioso legale che può trascinarsi per anni in sede giudiziale, in cui le donne poi si trovano a dover pagare consulenti, avvocati per riuscire a vedere riconosciuti i propri diritti. mariti e quello dei propri figli. Per questo abbiamo chiesto il sostegno economico, ma anche un fondo regionale per coprire le spese di assistenza legale, per esempio sull'esempio di una buona prassi fatta anche dalla regione Piemonte in Italia, perché l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, il gratuito patrocinio, è una coperta molto corta che non copre tutte le spese legali delle donne. Per esempio, in sede civile una donna deve avere un reddito lordo inferiore agli 11.000 euro per essere ammessa, e chiaramente è una cifra molto bassa. Oppure in sede penale la copertura del gratuito patrocinio scatta solo con l'avvio del processo, quindi tutta la fase che va dalla denuncia all'istruzione del processo vero e proprio, questo sono tutte spese legali che non sono coperte dal gratuito patrocinio. Poi, visto che le donne sempre di più chiedono aiuto ai centri antiviolenza, i centri della nostra regione quest'anno hanno avuto un aumento negli ultimi anni del 20% delle richieste d'aiuto, i centri antiviolenza chiedono anche che vengano raddoppiate le risorse destinate a loro e rese strutturali, non che un anno ci sono, un anno non ci sono. Leggevo che nel 2017 appena 76 centesimi al giorno sono stati versati per ciascuna donna che è ospitata nei vostri centri. Sì, non solo ospitata ma seguita dai centri, perché le donne che vengono ospitate sono solo una parte. Adesso faccio un esempio: io lavoro alla Casa delle Donne, seguiamo in percorsi di tutela, di sostegno, di uscita dalla violenza circa 800 donne all'anno, ne ospitiamo circa una cinquantina ogni anno. Quindi tutte le altre donne, anche sia le donne ospitate che tutte le altre che non vengono ospitate, hanno bisogno di un supporto e sempre di più chiedono aiuto, quindi c'è la necessità di seguirle e certamente i fondi che vengono destinati non sono sufficienti. L'Istat appunto ha visto che sono 76 centesimi al giorno, chiediamo che vengano almeno raddoppiati. La nostra regione, preciso, ha fatto molto in questo senso, cioè ha distribuito in maniera trasparente e immediata tutti i fondi che sono arrivati dal livello nazionale, cioè dal governo per i centri. Però questi fondi nazionali sono pochi, come dice l'Istat in questa ricerca. E pensiamo poi che è uno dei punti caldeggiati prescritti, per cui il nostro Stato si deve adeguare, prescritti dalla Convenzione di Istanbul, che è una legge sovranazionale che il nostro Stato ha ratificato e quindi si è impegnato in tal senso, e che però è lungi dall'essere applicata pienamente. Qualche candidato o candidata già risposto alla campagna? Sì, si possono vedere le risposte tanto dei candidati presidenti sul sito pensaciprima.info. Nella pagina adesioni si possono vedere i video, già 4 candidati alla presidenza. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Un colpo di tosse in diretta per introdurre il tema dell'ambiente e il cambio del meteo, perché quindi leggo con Paolo Virtuani dal Corriere della Sera: inverno al rovescio. Quindi onrenvinne, questo sarebbe. Se neve sui dromedari in Arabia Saudita. Spuntano le gemme nei giardini di Londra. E in Spagna sono in fiori i peschi e i mandorli. Il meteo: l'anticiclone continua a portare bel tempo e temperature sopra lo zero sull'Italia. Quindi posso confermare che arrivando alle montagne del centro Italia non c'è un accidente di neve. Questo. E mentre allora in questo quadro, che naturalmente fa piacere perché la mattina esce di meno freddo, ma insomma da qualche preoccupazione più generale sull'evoluzione del clima nel mondo, ad Assisi nasce l'Alleanza per un'economia sostenibile, sempre sto pagino del Corriere, presentazione oggi a Roma, il 24 della giornata al Sacro Convento. Ma anche Assisi è un laboratorio di una serie di cose, dalla pace all'ambiente. I Realacci, quello di Lega Ambiente, oggi credo Demme, Catto Demme, uniti per una grande sfida. Questa è una parola di quelle che non si nega nessuno, la grande sfida è quando la sfida, una volta si diceva alle soglie del nuovo secolo, adesso il secolo è già arrivato, quindi del millennio. Ma veniamo invece troppo smog, la Roma blocca anche i diesel Euro 6, limitazione al traffico in Emilia Romagna, Toscana e Veneto, valori oltre limiti a Torino e Milano, insomma è bel tempo che punta. Tra l'altro viene la pianura padana, sappiamo che è una sorta di conca, noi l'Olanda, che è dove ristagna lo smog, quindi il danno è anche maggiore. Poi abbiamo questo tema che riguarda i nuovi laghi in Italia, che è da fare anche del turismo. A Caserta, terra dei fuochi, un lago di rifiuti nella vecchia cava, c'è un gommone che naviga in mezzo alla schifezza. Un lago di rifiuti in una cava dismessa, e la scoperta fatta, una scoperta, un lago come fai a scoprirlo? Non è che ci vogliono degli esploratori, comunque beh. Scoperta fatta a San Felice a Cancello, in piena terra dei fuochi, dai vigili del fuoco di Caserta. I pompieri erano scandagliati in lungo e in largo, navigando tra i rifiuti con i gommoni, provando a sondare il fondale con sub e telecamere particolari, vista la melma che rendeva impossibile la visibilità già pochi centimetri di profondità, quindi non balneabili, diciamo così, però non puoi non affondi perché è pieno di copertoni, quindi cioè, la sicurezza è garantita. Poi sempre parlando in genere lungo e largo, dalle cose così serie a quelle magari più folcloristiche, un paginone del Corriere: bimbi a scuola in calesse insorgono gli animalisti, così i cavalli soffrono, la protesta degli antispecisti contro l'ippobus comunale. Questo è la bella dell'informazione, che a me tutti insieme è pareggia tutto. Di ambiente si parla anche, tornando indietro, nelle elezioni regionali Milano-Romagnole, perché il Corriere mette un faccia a faccia tra Borgonzoni che dice pianteremo un albero per ogni abitante, obiettivo rifiuti zero da smaltire, replica la Lucia Borgonzoni, no ai divieti ma incentivi per i mezzi eco, quindi se ti va puoi anche non inquinare e ti do dei soldi in più, non è che ti devi non inquinare la regola, no, se sei meritevole ti do anche dei soldi. Cambio di passo sugli invasi agricoli, questo dice la Lucia Borgonzoni. Altrove le cose vanno diversamente, c'è maggior sensibilità anche politica sul tema, e quindi il mondo del sulle 24 ore parla dei verdi tedeschi, 40 anni di vita e l'ambizione della cancelleria. Il partito è stabilmente la seconda forza politica del paese col 22%, grazie a esempi virtuosi di governi locali, la base elettorale non è solo urbana. Noi sappiamo che certi gruppi un po' d'avanguardia sono nelle zone magari con città, con università, ma fuori c'è un certo deserto. In Germania non è così. E quindi siamo a un altro tema che arriva dal Corriere della Sera, che riguarda le nostre autostrade. Perché cosa succede? Succede che Atlantia ora si appella all'Unione Europea per salvare il bancomat ASPI. Ovvio, l'aspetto curioso che i costruttori vanno in Europa dicendo il governo viola le leggi. Ora, se qualcuno viola le leggi, mi sembra, ha comprovato che sono i gestori dell'autostrada, dice, ma comunque ognuno tira l'acqua sul mulino. Revoca vicina, i Benetton hanno scelto la guerra legale, gli azionisti esteri scrivono a Bruxelles sperando che fermi il governo come nel 2006, ma se non ci riescono con la legge provano a prenderci per un pizzico del cuore, perché leggo nuovi vertici per Atlantia, Mion, la famiglia Benetton ha capito di aver sbagliato, come dire, il ragazzo ha capito di aver sbagliato, ora questa settimana niente baghetta e poi dopo torni a giocare a pallone. Bertazzo, che fa rima, al timone, scurdi di Standard & Poor's, soci esteri intervengono l'Unione Europea, dice il Corriere, anche se hanno capito di aver sbagliato, però la colpa del governo questo. E allora hanno sbagliato, le pile del Cerrano si spostano in 7 centimetri, l'allarme del GIP, il magistrato. È un viadotto che peraltro io percorro spesso, quindi ogni volta che lo percorro guardo San Cristoforo quel magnete sul, dice, pensa a me, vai piano, non farmi precipitare. I rilievi del ministero che hanno valutato lo stop dai tir sul viadotto della 14, tra l'altro racconta al centro il giornale abruzzese che tutte le strade che questi tir che devono uscire a Piceno per rientrare dopo facendo 20 km di strada adriatica hanno intasati i paesi con smog, file per il rumore terribile, perché tutto il traffico pesante viene deviato su questa provinciale. I rilievi del ministero, quindi autostrade, si è mosso il terreno, no, il ponte è fermo, è il terreno che si muove, è colpa del terreno, processiamo il terreno. Sotto sequestro, i tecnici di Porta Pia vanno mitigati i rischi connessi al diffuso ammaloramento, questo è il decadimento del ponte. Allora a questo punto siamo grati alle autostrade che ci danno questo pizzico di brivido quando viaggiamo e ci fanno fare delle riflessioni sul ponte come quelle del signor G di Giorgio Gaber. L'acqua che passa, l'acqua che scorre, tira un gran vento e piove un po', e notte fonda, c'è qualche lume, sto sopra il ponte e guardo il fiume. A cosa pensi? mio signor G, pensi alla vita, a ciò che finì, a ciò che hai detto, a ciò che hai fatto, al tuo coraggio, al tuo passato che è già passato. L'acqua che passa, l'acqua che scorre dentro quel buio, oltre quel buio, fa molto freddo, è quasi inverno. Sto sopra il ponte in un inferno. In un inferno, mio signor G, via non diciamo frasi così, tutto s'aggiusta, questo è il tuo motto, non lo ricordi, hai sempre avuto quello che hai dato. L'acqua che passa, l'acqua che scorre, come una nenia che non finisce, io che la guardo come assopito, ci farei un tuffo tutto vestito. Tutto vestito, mio signor G, ma lascia stare, va via di lì, ritorna a casa, tra le tue mura, tra i tuoi parenti, se hai strane voglie, pensa a tua moglie. L'acqua che passa, l'acqua che scorre, che non riflette neppure una stella, passa una coppia, vive qualcuno, e su quel ponte non c'è più nessuno. E quindi dei ponti italiani che oltre all'airbag dovranno dotare le automobili anche di paracadute. Veniamo invece a una notizia tragica che arriva da Milano e naturalmente, parlando di operai, viene confinata in cronaca locale. Va da sé, perché se fosse invece qualche imprenditore sarebbe in prima pagina. Operaio travolto dai detriti nel cantiere M4. A 18 metri di profondità è la prima vittima, come Cristo si è fermato a Eboli, la stessa vicenda che però succede nel nord produttivo, nella Milano da bere. Prima vittima del cantiere M4, Raffaele Ielpo, 42 anni, caposquadra della talpa TBM, lavoratore del consorzio Metro Blu, Salini in Prigilio a Stalli, è morto ieri pomeriggio a 18 metri di profondità nel tunnel di Piazza Tirana. Ielpo è stato travolto dal crollo di una parte del soffitto della stanza. Questa notizia appunto di cronaca locale, che perché non debba turbare più di tanto i lettori del giornale Il Corriere. Però siccome la nostra redazione è invasa da fax, di Twitter, hashtag di qua, hashtag di là, Instagram, Facebook di protesta perché non parliamo della regina, ci pieghiamo e allora dobbiamo parlare della regina. Dice sì ad Harry e Meghan, la nuova vita senza fondi pubblici. Mi ha tirato un po' le orecchie. La regina madre, dicono i giornali, la 93enne vispa arzilla si è imposta. Il comunicato dopo il summit nel castello, no, appartato, eccetera, eccetera. Li avrei preferiti i membri a tempo pieno della famiglia reale. I fratelli, Harry e William, qui c'è da fare di tante quelle serie televisive per Netflix da svenire, hanno diffuso un comunicato in cui smentiscono la loro rottura, perché ieri William ha detto l'ho difeso fino a oggi, basta, non lo difendo più, adesso no, siamo tutti con Elisabetta. E poi c'è Camilla di Borbone, perché c'è anche Camilla di Borbone, vieni avanti Camilla. Elisabetta ha mostrato coraggio, difende il futuro della monarchia. E qui una lacrima non può che non spuntare dagli occhi. Carlo ha superato la prova. Loro da lì hanno fatto camminare coi piedi nudi e sui carboni ardenti, evidentemente. Questo è. E tutti dire la regina qua, la regina là. Io francamente non riesco a spiegarmi come chi da una parte predica l'uguaglianza delle persone possa riconoscere l'aristocrazia, che simbolicamente rappresenta l'ineguaglianza tra le persone. E infatti i cittadini inglesi non sono cittadini ma sono sudditi di sua maestà. C'è una differenza tra questi cittadini e sudditi. Comunque non facciamo polemiche, e invece è una bella storia romantica che ci piace. C'era una volta un bianco castello fatato. Un grande mago l'aveva stregato per noi. Sì, ma qui si parla dal punto di vista romantico, letterario, da principi dell'Ottocento, voglio dire, tutta un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo letto finora, eh? Ma restiamo purtroppo attinenti alla realtà e a pagina 9 della Stampa vediamo un'altra emergenza, altro che nobile, così l'Italia si scopre antisemita, gli ebrei hanno troppo potere, la prima ricerca sulle discriminazioni curata da Euromedia Research, l'1,3% nega perfino l'esistenza della Shoah. L'ostilità nei confronti dell'Islam e dei musulmani è poi al 36,7%. Tradurre in numero tutto ciò è inquietante. Quali tra le seguenti osservazioni sono ritenute vere? I palestinesi sono vittime di un genocidio da parte degli ebrei, e poi si prosegue con una confusione più totale fra quello che è antisionismo e antisemitismo, che è un piatto dove la destra ha tocciato in maniera indiscriminata. Beh, vediamo che questo trova conferma anche nell'approfondimento curato da Mattia Feltri a pagina 9 del quotidiano torinese della Stampa. Gli ebrei hanno troppo potere nel mondo finanziario economico italiano, qui siamo quasi al 50%. Gli ebrei sono causa di molti dei conflitti nel mondo, qui superiamo il 20%. Per cui, insomma, direi che no, non c'è da preoccuparsi, dai, non c'è nessun pericolo per quanto riguarda antisemitismo e rigurgiti di un passato cruento e di nefandezze assurde. Beh, basta leggere quello che troviamo nelle cronache tutti i giorni. Continuiamo con la cronaca e troviamo dal Resto del Carlino la notizia principale sotto la testata al titolo "Allarme Spinelli snobbato dai genitori". Centinaia di post dopo la nostra inchiesta. La sorpresa: sono prima di tutto gli adulti a sottovalutare il problema, ma perché magari ne sono dei consumatori, insomma, che per quello che magari hanno un'opinione tale. Genitori shock, Spinelli innocui, raffica di post sulle nostre pagine Facebook, e peggio l'alcol, la cannabis non ammazza. E su questa affermazione il Carlino, che vede come fumo negli occhi, si accende il dibattito online dopo l'inchiesta sul boom dello sballo tra i giovani. La maggior parte dei commenti mette in dubbio le evidenze scientifiche. E beh, certo, quello che troviamo è sulle pagine Facebook, come puoi dire di no davanti a queste affermazioni? Ed è definita dal Resto del Carlino un'emergenza educativa. Lo spinellone. E comunque chiudiamo con Verso gli Oscar, perché la buona notizia che arriva da Hollywood questa volta è Le 11 volte di Joker, un film tra l'altro stupendo, fatto con un attore di grandissimo taglio, e che pone appunto sotto la fantastica storia di Joker e il babbo di Batman rovesci i canoni. Chi è il fascista, chi è l'eroe? Comunque una storia tristissima, disperata, che parla appunto forse anche di cose come i gilet gialli e tante altre cose, ma un film da vedere perché non l'avessi ancora visto. Il dramma con Phoenix impone, e il film più nomination, Tarantino Scorsese nel 1917, lo inseguono con 10 candidature. Il grande sconfitto è De Niro, escluso con i suoi Irishman nel film di Scorsese. Con questo noi ci congediamo con la rassegna stampa, naturalmente a risentirci stasera domani, adesso la parola va a Attenti Quei Due con Andrea e Susanna. Ciao a tutti.